Ruby, sono Gianna. Avete fatto una figura di merda. Vi siete fatti leggere le carte egiziane. Vi siete fatti leggere l'anima. Pezzi di merda. Chi voleva visualità? Eravate voi. Raffa dal cuore in live. Economica. Non... Ve lo scordate di avere due amici come Raffa e Davide. Raffa e Davide. Raffa e Davide. Loro danno il cuore. Sanno cos'è l'amicizia. Solo un numero. 1950. Siete stati solo un numero. Davide. Raffa. Davide. Sono Gianna. Davide. No, grazie. Davide. Siete due pezzi di merda. Quante scene stai a fare? Stai parlando oggi? Faccio la vigliacca. Come te. Cioè, voi non sapete cos'è l'amicizia. Hai sentito? I veri amici siamo noi. Cioè. Davide. Sono Gianna. Non sei mai esistita. Falso. Pezzi di merda. Tu, Besaula di cervo. E voi? E boiler. Voi non sapete cos'è l'amicizia. Non sapete neanche dove abita. Guarda che boiler. Dovete solo crescere, maturare. Guarda il cesso. Vi siete fatti leggere le carte egiziane, l'anima, le carte egiziane, vigliacca, le carte egiziane, l'anima. È uno sciame. Avete fatto una figura di merda. Di moscerini. Quello che penso di voi, ve l'ho detto, vigliacca. Ciao amici.